nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, ben ritrovati a Nessuno è Perfetto, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Chi ci segue si sarà accorto che noi non siamo andati in onda domenica scorsa. Come si poteva andare in onda mentre tutti i nostri pensieri erano proiettati su Parigi? Ed è proprio pensando a Parigi che questa puntata di Nessuna è Perfetta la dedichiamo a una ragazza che invece ai nostri occhi perfetta lo era, a Valeria Solesin, la giovane dottoranda, ricercatrice italiana, che è stata uccisa insieme a tanti altri coetanei e non coetanei nella tragica notte di venerdì 13. Era a sentire un concerto al Bataclan. Amava la vita, Valeria Solesin. Era riuscita in un suo sogno, quello di ottenere un posto da ricercatrice in demografia all'INED, all'Istituto della Sorbona. Era fiera di essere riuscita perché, come tante ragazze della sua generazione, voleva conquistarselo pezzetto per pezzetto il suo futuro. Perciò questa puntata è per te, Valeria, per quel poco che può servire e per tante ragazze che come te credono che la vita è bella e bisogna, ed è bello anche conquistarsi pezzetto per pezzetto il futuro. Citiamo un pezzetto di Valeria. Le parole che avevano siglato un articolo che aveva scritto qualche anno fa per il sito francese Neo-Demos. Cominciamo così. Allez les filles, au travail. Avanti ragazze, al lavoro. E di lavoro, di carriera, di spunti professionali continuiamo a parlare qui a Nessuna è Perfetta e parliamo anche oggi, certo. Quanti di voi conoscono l'importanza di saper negoziare? Guardate che è importante saper negoziare, è un'arte, è fondamentale non soltanto per ottenere un aumento di stipendio, ma anche per relazionarsi meglio col proprio padre, col proprio marito, con i figli adolescenti. Anche dell'arte di negoziare vorrei parlare con l'agente provocatore di questa settimana. Buona domenica Enrico Bertolino. Ciao Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori. Conduttore, comico, scrittore, attore. Non tutti sanno però che dopo una laurea in Bocconi Enrico Bertolino aveva cominciato la sua attività nel settore bancario. Ma a me viene da ricordare come prima cosa quello che avevi scritto in un tuo libro di qualche anno fa, Pirla con me. Sì. È dedicato un pezzetto all'essere donne a Milano. Le donne milanesi, dicevi, hanno anticorpi maschili, c'è la donna cazzuta, la donna moma. Com'è? Spiegacelo un po'. Ma guarda, adesso è passato talmente tanto tempo che è cambiato ulteriormente, no? Perché poi c'è stato un momento in cui per essere donna bisogna dire a Milano devi fare vedere che hai le palle. Questa cosa qua era imbarazzante, no? Nel senso che ci fu anche l'appunto fatto a Margaret Thatcher dai suoi collaboratori, che le dicevano spesso: Margaret, non accavallare mai le gambe perché ti si vedono le palle. Donna di Milano succedeva. E succedeva, sì, ma poi adesso questo è un tipico atteggiamento che paga molto in epoca rampante, in epoca degli yuppies, in epoca di successi anche economici. Laddove invece subentra un po' di crisi, questo modello si incrina, diventa argilloso, cioè crolla, perché poi in quel caso bisogna essere meno tracotanti o arroganti o anche forti, e bisogna essere un po' più invece avere capacità di aggregazione. Ma Enrico Bertolino, meno autoritari e più autorevoli. Enrico Bertolino, le donne sono notoriamente pessime negoziatrici, motivo per cui oggi qui a Nessuno è Perfetta parliamo di come avanzare in una trattativa. Qual è ci puoi fare un esempio di come si pone un uomo in una trattativa e di come si pone una donna? Ma guarda, io ti posso fare un esempio personale, cioè da dove sono andato a fare, ho fatto anche un corso di tecniche di negoziazione tanti anni fa, purtroppo, a Bruxelles, e avevo un docente australiano che aveva una cultura, mi diceva, per andare a negoziare devi avere sempre un piano B, cioè un'alternativa, perché altrimenti non è negoziazione ma è un'implorazione. Devi avere un piano B perché sennò non è una negoziazione, è una implorazione. Cioè, praticamente, cioè, devi dire, devo avere un'alternativa. Io vado a chiedere un aumento al mio capo, devo mettermi nell'ottica che lui mi dica no, non glielo do, anzi, già che è qua la licenzio. Cioè, è un e quindi devi avere un piano B. Devi avere un piano B, cioè, nel senso, che ti dà forza. Bisogna, insomma, prepararsi una strada alternativa. Nella tua storia di uomo di spettacolo, chissà quante trattative, quante negoziazioni hai fatto, ci racconti una in cui è andata particolarmente male, magari all'inizio della carriera? E guarda, una in particolare, se parliamo di spettacolo, è l'aver demandato la parte più importante della negoziazione ad altri, che me l'ha fatta, non è andata come doveva, ecco. È stata proprio una esclusiva che ho fatto per un canale televisivo, dove io ero in vacanza, in quell'epoca ero demandato alla mia agenzia di concludere questa cosa, e se fossi, queste cose non si demandano, bisogna essere presenti. Io ho sbagliato io, ovviamente, perché poi la gente nel tentativo di fare il mio interesse ha chiuso un contratto per un programma che non era neanche nelle mie corde. Questo programma dopo tre puntate mi ha licenziato serenamente e mi sono trovato nella condizione di avere mancato la fase della trattativa. Quando qualcosa è su di te ed è così importante, devi esserci. Puoi delegare qualcuno che ha delle expertise, delle skills, delle competenze. Se uno ha le competenze è giusto che io delego lui, cioè l'avvocato fa le mie veci, però non posso dire faccia lei, a me non mi interessa niente, devo esserci. Senti Enrico Bertolino, quando si tratta di negoziare sui soldi, l'ironia aiuta oppure su certe cose come i soldi non si scherza? Ma guarda, purtroppo c'è quel vecchio adagio che è ancora valido: scherza coi santi ma lascia stare i contanti. Ecco. Che però a mio avviso anche qui per i soldi sono stati fatti i maggiori errori nella vita delle persone, cioè per la scelta economica molto spesso condiziona poi la scelta del piacere personale. Io sono un tifoso di Gambardella, del fatto sono arrivato a un tot anni, voglio fare quello che mi piace. Ovviamente per fare questi ragionamenti bisogna avere anche una base economica. Sono più del fatto che per fare la cicala deve aver fatto la formica 20 anni. Ecco, e appunto noi parliamo spesso alle ragazze e ragazzi che hanno 30 anni, si avvicinano ora, purtroppo tardi magari, al mondo del lavoro, e lì c'è poco da fare le cicale o le formiche, fanno solo le formiche, perché non è che ci siano questi grandi contratti su cui negoziare. No, anzi ci sono società oggi che sui ragazzi speculano. Ci sono dei comparti che hanno ancora un notevole ritorno economico, che approfittano del fatto che vogliono prolungare gli effetti crisi per poter pagare meno. E questo è una cosa che va ricordata, e sono contenta che tu l'abbia fatto. Senti, per chiudere, così come questa puntata è cominciata, con un pensiero a quello che è successo a Parigi, che è qualcosa che ci stiamo portando dietro, ce lo porteremo tantissimo, perché Hollande ha detto che siamo in guerra. Si può discutere sulla scelta del sostantivo, ma insomma la situazione è di grande e globale tensione. Gli attacchi che sono stati portati a Parigi sono attacchi alla gioia, alla felicità. Chi ha la scelta, chi ha scelto di far sorridere, che sia un comico o che sia un vignettista, si trova oggi a dover riflettere di più su quando fa una battuta. Tu hai paura di dire delle cose, no, pensando di urtare la suscettibilità magari religiosa di qualcuno? Secondo me l'ironia può essere devastante nei confronti di questa situazione, cioè l'arte di prendersi in giro vuol dire uscire da se stessi, girare intorno e guardarsi. Sì, sembra impossibile in giorni così cupi, no? No, secondo me invece salva, deve fare solo attenzione al gusto, secondo me bisogna fare attenzione a quello che è il buon gusto, ma questa è una mia opinione personale. La compostezza che si è vista negli occhi dei genitori di Valeria, proprio di questa ragazza, quando hanno lasciato le loro dichiarazioni dicendo nessuno prenda il nostro fatto per scatenare odio, ecco, su questa cosa qua io penso che sia un bel esempio di come si possono vincere le guerre pacificamente. È un bellissimo esempio, e su questa immagine, sull'immagine dei genitori di Valeria, italiani così dignitosi, e dei tanti francesi che dignitosamente stanno portando dentro un dolore enorme, pensiamo a tutti quelli che hanno perso una moglie, un fidanzato, un padre, e con questa immagine di dignità che però non è sottomissione, è forza e voglia di andare avanti, che salutiamo Enrico Bertolino, il nostro agente provocatore, ma oggi non c'era bisogno di provocare granché. C'era bisogno più di capire che di provocare. Grazie, buona domenica. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Nessuna è perfetta. Bentornati. bentornati a Nessuno è Perfetto, il programma dell'altra domenica di Radio 24. E dopo le chiacchiere che abbiamo fatto con il nostro agente provocatore Enrico Pertolino, è arrivato il momento della nostra Sunday Girl. Un'attrice, una comica, un'imitatrice, una scrittrice, c'è altro? Cioè, Paola Cortellesi è proprio la personificazione del multitasking all'ennesima potenza. Ciao Maria, sì. Ciao a tutti. No, beh, multitasking, in realtà faccio la stessa, guarda, è lo stesso mestiere poi, scrittrice, poi tu mi hai detto scrittrice, io ti ringrazio, ma insomma sono la mia terza sceneggiatura, ecco. La terza sceneggiatura è scrivere, tra l'altro. Beh, dice, ma è attinente, dai, no, sì. Però dice Alessandro Gassman, dice Alessandro Gassman che siccome sei una che canta come Ella Fitzgerald, scrive sceneggiature benissimo, sei bella, sei spiritosa, sei insopportabile. Mi vuole bene. Mi vuole molto bene, Alessandro. Però è vero che l'essere brava su molti fronti, insomma, crea un po' questa sindrome della prima della classe, o no? Ma dipende da come lo vuoi leggere, a me da come gli altri hanno voglia di leggerlo, io non è che sia eccellente in tutti i campi, alcuni veramente, adesso scherzi a parte, questo della sceneggiatura veramente sono agli inizi ed è una cosa che mi piace fare, che mi sta riuscendo, che continuano a in qualche modo, poi non, che lo faccio da sola tra l'altro, perché si lavora sempre in squadra e ho sempre lavorato con persone più esperte di me tra l'altro in questo campo. Film che è nelle sale dal 12 novembre, gli ultimi saranno ultimi con te, Alessandro Gassman, la sceneggiatura è scritta a due mani con Massimiliano Bruno. Con Massimiliano Bruno, ma anche con Furio Andreotti e Gianni Corsi, ed è tratto da uno spettacolo teatrale che scrisse Massimiliano invece, solo lui all'epoca per la scena, e che io ho interpretato per quasi 200 repliche, e dunque sì, è stato, diciamo che te lo senti un po'. Ora, questa puntata di Nessuno è Perfetta è dedicata all'arte di negoziare. Nel film la protagonista, che come vedremo combatte una battaglia durissima per ottenere un contratto di lavoro, alla fine esasperata, diciamo che usa una forma di negoziazione un pochino estrema, cioè che succede? Succede che purtroppo è una lavoratrice precaria, viene licenziata perché è incinta, la sua vita va un po' a rotoli anche in seguito a questa cosa e anche per altri motivi naturalmente, e compie un gesto estremo, cioè va a negoziare, ma non la chiamerei negoziazione, no. Va a pretendere indietro il suo posto di lavoro, ma con la pistola alla mano. Ecco, diciamo che questa non è un'arte del negoziare, ecco, non no, è, proprio... è una negoziazione un po' estrema. No, ecco, la sconsiglierei, mi sentirei di sconsigliarla. Almeno agli esordi, è capitato di negoziare un contratto, una prospettiva di lavoro, un film, eccetera, con un agente che magari poi ti ha fatto trovare in un meccanismo diverso da quello che ti aspettavi? Cioè, hai mai avuto una negoziazione fallimentare? Una brutta sorpresa, ma no, devo dire di no, nel senso che ho avuto, ho lavorato molto gratis, sì. Come succede ahimè in molti campi e continua a succedere, però si fa anche, no, in questo lavoro per fare esperienza, però non c'era una sorpresa, lo sapevo dall'inizio, ecco, e non ho avuto sorprese. Poi invece no, devo dire che ho avuto quello che mi avevano promesso, quindi i compensi, dai primi compensi, insomma, le prime paghette, diciamo così. Ma tu sei brava a negoziare? Quando si tratta di avere un contratto da firmare, sei lì tu da sola o ti fai sostenere da avvocati, agenti, eccetera? No, il mio agente che se ne occupa e insieme a me, nel senso che io sono al corrente naturalmente di quello che accade, non mi piace firmare nulla, insomma, senza leggerlo, Certo, essere informata, certo. Mi piace essere informata, però ci sono persone molto più esperte di me che sanno fare benissimo questo mestiere, lo fanno bene, lo fanno, insomma, sanno. Io non sarei brava a farlo, devo essere sincera, sarei veramente un disastro. Senti, in questo tuo ultimo film, Gli ultimi saranno ultimi, torna il tema delle donne e del lavoro, proprio come nel tuo precedente film con Raoul Bova, quando tu eri l'architetto Bruno e Raoul Bova si presentava come l'architetto Bruno, mentre tu facevi da, diciamo, da spalla. Cioè, io facevo il lavoro e lui appariva. Perché sennò non avresti mai avuto il contratto, appunto, e l'appalto, perché essendo una donna non saresti stata considerata a livello di ottenere un contratto di quella importanza. Sì. Quella era più sottile come storia di lavoro. Mi piacciono le storie sul lavoro. si è capito. Quello era un argomento attuale perché trattava il lavoro non riconosciuto e riconosciuto, è una sorta di discriminazione anche che c'è, quanti anzi, grandi, la vera e propria discriminazione, certo, che quanti c'è grandi architetti, quanti grandi avvocati hanno una socia che lavora nell'ombra e fa tutto il lavoro per loro, mentre poi alla fine onori e gloria toccano al maschio, o almeno finora è stato classico. Così. È un classico, devo dire, questa è una cosa, non succede sempre questo, non posso dire che accada sempre questo, però sicuramente questo accade. In questo caso, nel caso degli ultimi saranno ultimi, è naturalmente un caso diverso, si parla di una persona non iperpreparata come la persona che era invece nel film Scusate se esisto. Sì, questa è una donna più semplice, che si accontenterebbe di una vita dignitosa, senza aspirare per forza a una grande carriera. Sì, non aspira a grandi cose, lei fa l'operaia in una fabbrica e continua ad avere il rinnovo del contratto ogni anno perché fa bene il suo lavoro, ha una vita dignitosa, non aspira a grandi cose, vive anche, devo dire, piuttosto comoda in una sorta di invisibilità che le fa anche comodo, nel senso, no, una che si fa gli affari suoi, anche troppo, fino a quando appunto non le viene rinnovato il contratto, perché dovendo in una situazione di crisi poi fare dei tagli, chiaramente chi deve prendere questa decisione, suo malgrado peraltro. Certo. Ecco, questo mi premeva dirlo, non è un film manicheo, non siamo qui a rappresentare i cattivoni e i buoni, perché ognuno in questo film è ultimo, ma ognuno fa anche del suo meglio. Di fatto però lei viene silurata perché aspetta un bambino, è un lavoro anche fisico quello che lei deve fare, dunque dovendo aspettare un bambino e basta, viene scelta un'altra ragazza. Un punto che, nonostante sia dichiaratamente illegale, nonostante sia stata fatta una battaglia perché questo non succeda, però sotterraneamente è ancora praticato. È un argomento, certo. Io vedo rispetto anche all'uscita del film e anche rispetto a chi ha visto questo film, questo racconto a teatro o quando se ne parla in generale, perché purtroppo se ne parla, dico purtroppo perché non si dovrebbe, nel senso che non parlarne non dovrebbe proprio accadere. Esatto. Però poi devo dire che senti la solidarietà e senti che c'è assolutamente invece intorno che molte persone si riconoscono, non nel gesto estremo che la nostra non eroina, che è la Luciana del mio film, che non eroina, stavo per dire eroina ma non è un'eroina visto quello che combina poi, però si riconoscono molto in quello che le capita. Ci siamo fatti questa domanda, ce la si pone all'inizio del film quando si vede il prefinale, il film comincia con il prefinale e ci siamo chiesti quale sarebbe il confine per ognuno di noi. Ognuno di noi penso che messo in tali condizioni possa arrivare a compiere eh, un, un gesto sconsiderato come quello che abbiamo raccontato. È chiaro che questa è una situazione estrema ed è una situazione paradossale. Paola Cortellesi, in chiusura, saresti un po' in questa fase la Ken Loach al cinema delle donne, la Ken Loach che racconta il rapporto delle donne e del lavoro? Io penso che un po' tu lo stia diventando. Io se fossi la regista, forse più Massimiliano Bruno che è il regista, è un po' il Ken Loach che racconta questa cosa. Io so che a Massimiliano questo paragone farebbe molto piacere, perché Ken Loach è uno dei suoi registi preferiti, e nonostante Ken Loach abbia sempre trattato questi temi non in commedia e non con il registro umoristico che è proprio della commedia all'italiana nostra storica, ovvero la commedia amara. No, infatti essendo scozzese magari c'ha il registro scozzese dell'umorismo. Esatto, è molto più duro, però penso che questo essere affiancato a Ken Loach gli farebbe veramente piacere, perciò portaglielo e vediamo come reagisce. Vediamo come reagirà con un bel sorrisone da parte a parte, sarà felicissimo. Buona domenica Paola Cortellesi. Grazie. Andiamo a vedere Gli ultimi saranno ultimi al cinema dal 12 novembre. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Dopo la chiacchierata con la nostra Sunday Girl di questa settimana, Paola Cortellesi, eccoci arrivati al momento del problema, della questione da risolvere. Questa volta a scriverci è Martina. Ho 35 anni, un marito, una figlia. Sono avvocato e sto curando, apparentemente con grande successo, un importante business per la mia azienda. Di recente ho scoperto che i miei pari grado sono pagati più di me e, poiché devo ridiscutere il mio contratto, ho deciso di dirlo al mio capo. Faccio bene? Giorni fa sono stata anche contattata da un'altra azienda, concorrente, e ho deciso di andare comunque al colloquio, anche se non mi trovo male dove sto. In sede di rinegoziazione del mio contratto, devo dire o no al mio capo che avrei anche un'altra offerta? Martina. Eccoci pronti con i nostri esperti, che sono veramente preparati. Pensate, una è un'avvocata australiana, proprio come australiano era l'esperto di negoziazione citato prima dal nostro agente provocatore Enrico Bertolino. Evidentemente devono essere i più bravi nella materia. L'avvocata Sara Dettridge, docente in Transnational Business Law all'Università Cattolica di Milano. Buona domenica. Buongiorno a tutti. E con noi c'è Marco Del Checcolo, ex dirigente Adidas, fondatore di DMTC, un'agenzia specializzata nei diritti dell'utilizzo dell'immagine di atleti. Per citarne solo due, Federica Pellegrini è una sua assistita e il ciclista Peter Sagan, campione del mondo 2015. Marco Del Checcolo, buona domenica. Buona domenica a tutti voi. Allora, veniamo subito al punto per dare un po' un sostegno in questo momento di dubbi alla nostra Martina. Avvocato Dettridge, quale metodo dovrebbe adottare Martina per rinegoziare al meglio il suo contratto? Ma più che un metodo, io cerco di rispettare sempre tre principi fondamentali. Il primo, che dico in inglese, expectations drive behavior. Le aspettative guidano il comportamento. Se si cambia le aspettative, è possibile modificare i risultati. Quindi, se iniziamo una negoziazione attendendoci un risultato mediocre, difficilmente ne usciremo vincenti. Perciò occorre essere ambiziosi, di avere molto chiaro cosa vogliamo ottenere. Nel caso di una richiesta di aumento di stipendio, per esempio, occorre avere chiaro se si vuole solo un aumento di salario o invece benefits migliore, come, non lo so, maggior flessibilità oppure supporto alla gestione dei figli. Il secondo è abbastanza semplice, che se si arriva ad una negoziazione con argomenti razionali, chiari e ben preparati. Se ci aspettiamo che la controparte accetti i nostri punti, dobbiamo essere convincenti con ragionamenti che hanno una base razionale forte e che sono anche abbastanza equilibrate. Poi un terzo punto che mi è stato ispirato di una ricerca recente pubblicata negli Stati Uniti, secondo i quali, mentre gli uomini sono più bravi delle donne a negoziare per se stessi, invece le donne sono circa il 20% più efficace quando si tratta di negoziare per conto di altri, quando si rappresenta gli altri. Ecco, ho imparato anch'io che quando faccio una negoziazione non faccio solo per me, ma faccio per i miei figli, per il mio marito, per il nostro cane e anche per i due cricetti. Sono molto di più, vero, però certo che non vorrei deluderli. Ah, certo, quindi è bene sentirsi rappresentare non solo se stesse quando stiamo facendo una trattativa per noi, ma anche appunto tutti quelli che beneficerebbero da un vantaggio nostro. Marco Del Checcolo, un buon negoziatore deve seguire delle regole precise per ottenere il risultato. Quando, per esempio, tu vuoi ottenere qualcosa per gli atleti che segui, quale strategia adotti? Sì, introdurrei un elemento di emotività nel ragionamento molto pragmatico che sottoscrivo, che è stato illustrato prima. Qui chiaramente di fronte hai un interlocutore, non credo che sia cambiato un sano principio di PR, cioè iniziare sempre con un apprezzamento sincero nei confronti di chi hai di fronte e provare anche a parlare di qualcosa che sai o che comprendi essere coincidente con una passione del tuo interlocutore, di chi hai di fronte. Questo mette in una situazione un po' più di relax la discussione, che parte comunque senza quell'aggressività di dover arrivare dritti al punto. Nella mia esperienza questa cosa è un principio da non dimenticare mai. Funziona, insomma, funziona. Sì. Poi c'è un altro aspetto, no, avvocato Dettrich, che bisogna tenere presente. Martina dovrebbe sapere molte cose della sua azienda per poter trattare meglio. Che cosa dovrebbe sapere della sua azienda? Sì, a mio parere sono tre cose da capire. Primo, quale alternativa ha l'azienda? Chi decide e le regole intorno. Quindi deve capire quali alternative l'azienda può avere internamente e quindi comprendere quanto complesso sarebbe per l'azienda eventualmente trovare un sostituto facilmente. Poi Martina deve infine capire chi è il vero decisore. È il proprio capo o il direttore di personale o magari qualcun altro, qualcuno più senior? Se capisse che il proprio capo non è effettivamente in grado di decidere un aumento, lei dovrebbe chiedere di portare la sua richiesta a livello giusto o addirittura chiedere un incontro direttamente con la persona con il potere di concedere la sua richiesta. Poi certo direi che deve anche sapere quale le regole dell'azienda si adatta sugli stipendi. A un massimo dei salari per certe fasce? Certamente se i suoi pari grado guadagnano di più, l'azienda non può usare un policy come motivazione per non dare l'aumento. E questo infatti fa parte delle cose che si devono sapere prima di cominciare una trattativa. Per tornare anche all'aspetto, diciamo, emotivo anche della trattativa, Marco Del Checcolo, si diceva iniziare, diciamo, ammorbidendo l'interlocutore, ma se si trova una barriera, no? Se si trova proprio una opposizione bella tosta a quello che è l'obiettivo che si vuole raggiungere, come si riesce a far cambiare opinione? Beh, diciamo che su una negoziazione di tipo classico, e qui mi ritrovo molto con un punto esplorato nel precedente intervento, conta molto sapere se hai o non hai un'alternativa. Tanto più tu puoi essere assertivo e non avere pazienza, quanto più sai di avere in mano un'alternativa. Quindi sempre avere un piano B, sempre sì. Avere un piano B. Quindi Martina, vai a fare quel colloquio col concorrente. Sì, sì, sì, assolutamente d'accordo con questo, anche perché in realtà questo può anche un po' coincidere con un timore che ognuno di noi ha, cioè che cosa mi aspetta se cambio. In realtà la paura di un cambiamento devo dire, soprattutto nello sport, induce a tutto tranne che a peggiorare, perché se si è veramente aperti al cambiamento ci sono tutta una serie di energie positive che poi si allineano e che poi si traducono. Insomma, la letteratura nello sport da questo punto di vista qua è piena di cose splendide. Quindi, avere paura del cambiamento, dunque. Questo è un altro elemento importante da tenere presente. Ma avvocato Sara Dettridge, però la paura c'è nel momento in cui si comincia una trattativa, perché uno intanto ha paura di fallire, ha paura che ti dicano no e tanti saluti. Come si reagisce alla paura? Ma io direi con preparazione, certamente, per questo colloquio. Troppa paura non ti aiuta per raggiungere un buon risultato in negoziazione. L'obiettivo di apparire decisi ma ragionevoli. Io suggerisco a Martina di prepararsi testando la sua trattativa con un sorta di role play, un gioco di ruolo con un altro collega, un mentor o un'amica. L'altra cosa di anticipare sono, io dico, i what ifs. Come posso rispondere se il mio capo dice no o se mi offre un altro benefit invece dell'aumento dello stipendio? Mm-hmm. In pratica di fare una certa simulazione del colloquio con diverse possibilità. In questo modo può evitare di diventare troppo emotiva nel caso in cui il suo capo dicesse subito no o accettasse solo in parte quello che sta chiedendo. Quindi di avere proposte o strategie già preparate se la conversazione non segue la strada prende una piega prevista. Diversa, certo. E Marco Del Checcolo, se la comunicazione anche, diciamo, non solo verbale, anche fisica ha un'influenza, che suggerimento si può dare? Tu che di trattative ne hai fatte tantissime, come bisogna presentarsi, come bisogna sedersi, anzi, che cosa non bisogna fare? Beh, insomma, in tempi passati ci spiegavano anche la teoria dello specchio, no? Cercare un pochino di fisicamente rapportarsi ai gesti di chi è di fronte. Io qui in realtà credo che ci sia un modo 2.0 o anche 3.0 di rapportarsi a questi elementi, cioè la preparazione ben stressata nel precedente intervento è una cosa che io credo sia fondamentale, perché quel mix di competenze e di attitudini che devono comunque essere trasferiti nel momento in cui rappresenti te stesso o rappresenti un atleta. Nel mio caso, ad esempio, teorizzo spesso con dei misuratori, dei KPI, come gli atleti che lavorano sulla loro immagine hanno una mentalità come se pensassero a loro stessi, come se fossero un brand, quindi con un mix di marketing e comunicazione. Ma quindi, per esempio, Federica Pellegrini ha fatto dei corsi per poi poter essere, diciamo, all'altezza di trattative molto importanti. Federica Pellegrini, che è stata per me un'esperienza professionale unica, fin dalla più tenera età si capiva che aveva quella curiosità e quindi quella attitudine nell'esplorare comunque dei campi legati al marketing e alla comunicazione, che poi ha con estrema disciplina messo in atto. Quindi, insomma, ha imparato e adesso è decisamente un atleta che è un brand rappresentativo di se stessa. Ha usato la parola disciplina, Marco Del Checcolo. Ci vuole disciplina anche nel preparare una trattativa. Però, avvocato Sara Dettridge, diciamocelo, ci sono trattative che esulano dall'ambiente professionale. Certe volte bisogna trattare col proprio figlio adolescente, col marito. Se si hanno 20 anni si tratta magari anche col proprio padre o la propria madre per convincerli a darci qualcosa. Come si fa una trattativa familiare? Che bella domanda, un tema che dobbiamo affrontare tutti i giorni. E direi che due cose: ovviamente c'è la parte emotiva di tenere sotto controllo e l'altra cosa importante di capire bene è quali sono gli interessi degli altri, dei figli, del marito, eccetera, e di cercare di trovare una via di mezzo, ecco. Marco Del Checcolo è uno che è bravo a negoziare in famiglia? Sì, insomma, dai, penso di sì, con un piccolo di 8 anni si comincia adesso a negoziare, fino a 7 anni no, dagli 8 in poi si deve negoziare. Io con lui utilizzo comunque un piccolo principio, cioè sono molto molto caloroso nello dare ogni suo progresso. E quindi si torna a quello che diceva prima, che quando si comincia una trattativa, una negoziazione, la prima cosa che bisogna fare è un complimento al nostro interlocutore. Io faccio i complimenti a voi due invece, all'avvocato Sara Dietrich e a Marco Del Checcolo. Grazie per essere stati con noi a Nessuno è Perfetta. Noi torniamo tra pochissimo con la nostra coach. Nessuna è perfetta. Eccoci bentornati all'ultima parte della nostra puntata e vi ricordo che se non siete d'accordo con quanto abbiamo detto prima con i nostri due esperti, l'avvocato Sara Dietrich e Marco Del Checcolo, il fondatore dell'agenzia che cura l'immagine di atleti come Federica Pellegrini, potete scriverci. Potete scriverci una mail a nessunaeperfetta@radio24.it oppure un sms al 349-238-6666, commentate anche su Twitter usando l'hashtag Nessuna è Perfetta o sulla nostra pagina Facebook. Ed è il momento della nostra coach. Bentornata Maria Serena Ciambellotti di Lares Consulting. Bentornata. Grazie, buongiorno a tutti. Buona domenica a te. Quali sono gli errori da evitare per negoziare con successo? Prima abbiamo visto il metodo da seguire, ma gli errori. I 3 errori fondamentali da evitare in una negoziazione. Allora, il primo, che si trasferisce proprio nei corsi sulla negoziazione, è quello di uscire dalla logica di protagonista e quindi non arrivare in negoziazione, non prepararsi quindi alla negoziazione, concentrandoci esclusivamente su quelli che sono i nostri obiettivi e quindi avere cura di conoscere ciò che il nostro obiettivo propone, in che cosa il nostro obiettivo si traduce in termini di vantaggio anche per l'altro e come indicatore di riuscita di questa posizione il calcolare proprio circa un buon bilanciamento di tempo tra parlare e ascoltare, quindi dare importanza all'altro, fare domande, ascoltarlo per poter poi presentare le proprie richieste in modo che ci sia quindi un bilanciamento tra le due posizioni. Quindi un errore da evitare è parlare senza ascoltare, invece bisogna fare una cosa bilanciata, esporre le proprie ragioni ma ascoltare anche quello che ci viene detto, perché così si capisce anche come rimodulare magari la seconda parte della nostra negoziazione. Ma certo, se tu fossi nei panni di Martina, la quale vuole un aumento di stipendio perché sa che gli altri suoi pari grado guadagnano 1000 euro lordi in più, come ti comporteresti? Ma innanzitutto uscirei da questa logica di chiederlo perché gli altri hanno, cioè quindi una sorta un po' di quasi gossip, no? Ho saputo che l'altro li prende questo tipo di stipendio, lo voglio anch'io, ma darei valore a la propria, come già ha fatto, no? Spiegandoci nella sua lettera, al contributo professionale, al valore aggiunto che quindi sta dando con la cura di questo progetto importante al business dell'azienda, e lo farei in maniera concreta, quindi esponendo dati, quindi numeri, preparandomi alla negoziazione, quindi dicendo, faccio un esempio, questo progetto, questo business che sto portando avanti con il mio team ha creato per l'azienda, faccio un esempio, un 10% di aumento del fatturato a fronte di un 4% di riduzione dei costi, quindi sono calcoli e dati che solo Martina può chiaramente avere, no? Ma se per esempio teoricamente lei non dovrebbe averli quei dati, perché sono dati magari sensibili che l'azienda non fa circolare, come fa a esporli al proprio capo? Beh, da quello che ci racconta nella sua lettera, no? Quindi ha un team che lavora, sì, con lei alla gestione di questo progetto, avrà sicuramente una visibilità sull'impatto almeno, no? Che questo tipo di progetto sta fornendo e quindi a che tipo di vantaggio sta fornendo all'azienda, anche se alcuni dati non sono esattamente in suo possesso, ma da come ci racconta sembra piuttosto sicura di sé, no? E del vantaggio, certo, che quindi sta creando per la sua azienda. Quindi a questo darei peso più che, e ascoltando anche il, come dire, il consiglio, diciamo così, no, del capo, che già in un precedente colloquio, così come lei ci racconta, le aveva detto: sì, sei tanto giovane, non pensare solo al denaro, pensa anche al tuo percorso. Quindi probabilmente questa azienda, che come lei ci dice è una multinazionale, garantisce a lei una bella esperienza, che quindi poi... Quindi approfondire che cosa si intende per percorso futuro, spiegami che cosa questa azienda può avere in mente per me, per il mio... Ad esempio, datemi un segnale, fatemi capire che ci tenete a me. Certo. Ecco, l'ultima domanda, Serena Ciambellotti. Martina ha la possibilità di giocarsi la carta del concorrente che la vorrebbe. Uh-huh. Può essere un'arma vincente o rischia di essere un boomerang? Allora, dipende da come viene utilizzata. Innanzitutto, beh, è una, come dire, si porta a casa un bel successo, no? Quindi la sua professionalità è apprezzata anche altrove e in maniera concreta. Dipende tutto da come la presenta, e quindi ancora una volta può essere sicuramente portata, no, con trasparenza in sede di negoziazione. Dunque, ho ricevuto questa proposta, quindi ad un profilo professionale simile al mio, in un'altra azienda del nostro settore viene proposto questo tipo di livello salariale, parliamone. Cioè, quindi non con una sorta di desiderio di ripicca o di sventolare il proprio successo personale sotto il naso del capo, ma proprio come un dato concreto di mercato che ha avuto la fortuna e la bravura di ricevere. Ottimo, dato concreto di mercato, segnatevi questo e Martina, fanne buon uso. Io ringrazio la nostra coach Maria Serena Ciambellotti. Prima di salutarvi vi ricordo ancora una volta che potete scriverci, mandare un sms al numero 349-238-6666 oppure una mail a nessunaeperfetta@radio24.it. Commentate anche con i vostri tweet usando l'hashtag nessunaeperfetta o state con noi su Facebook. Nessuno è perfetta per oggi termina qui. Abbiamo cominciato con un pensiero rivolto a Valeria, e a Valeria torniamo con la memoria e a tutti quelli che purtroppo sono stati vittime del tremendo venerdì 13. Grazie a voi per averci seguito. Buona domenica.